Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Oggi l'interrogatorio per l'ex fidanzato di Sara, bruciata viva a Roma, seguita nei suoi spostamenti con la geolocalizzazione dello smartphone. Si inaugura il tunnel del Gottardo, il più lungo del mondo, con i suoi oltre 57 chilometri, nel punto più basso a 2300 metri di roccia sopra di sé. In Iraq, Fallujah è una città assediata. Ci sono 20.000 minori intrappolati, dice l'UNICEF. Cibo e medicinali iniziano a scarseggiare. Nessuna correlazione tra vaccini e autismo. Dopo aver aperto l'indagine, la procura di Trani si prepara a chiedere l'archiviazione. La puzza di bruciato, poi il fumo, i passeggeri che scappano, un autobus prende fuoco sul muro torto a Roma. Alla vigilia del ponte del 2 giugno, l'immancabile polemica sui siti meteo, gli albergatori di Rimini pronti a portare in tribunale chi fa previsioni sballate. Pestum, il caso della baracca abusiva in mezzo agli scavi tra i più famosi al mondo. Non si può abbattere, parleremo col direttore del parco archeologico. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti, il 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e poi il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno, e la nostra mappa con il nostro giro per l'Italia quotidiano che potete trovare sul nostro sito www.radio24.it. In apertura dunque gli aggiornamenti sull'omicidio di Sara. Oggi è il giorno dell'interrogatorio di garanzia per Vincenzo Paduano. Sotto controllo 24 ore su 24, il 27enne ha passato la seconda notte in cella da solo nel carcere romano di Regina Coeli. La procura sarebbe intenzionata a chiedere per lui il rito immediato, vista la confessione e le prove schiaccianti a suo carico. Il vigilante ha ammesso di aver ucciso e dato fuoco alla sua ex fidanzata, la 22enne Sara Di Pietrantonio. In giornata è in programma anche l'autopsia sul corpo della giovane, che potrebbe aiutare a ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio. Gli inquirenti vogliono capire in particolare se la ragazza fosse ancora viva e cosciente quando Paduano l'ha cosparsa di alcol e le ha dato fuoco. Il vigilante, che ora è accusato di omicidio volontario premeditato con l'aggravante dello stalking, non aveva accettato la fine del loro rapporto. Le indagini hanno appurato che, dopo essere stato lasciato, aveva seguito e minacciato più volte Sara, che stasera intanto verrà ricordata da amici e parenti con una fiaccolata che partirà dalla sua abitazione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Si inaugura dunque oggi il tunnel del Gottardo, il più lungo al mondo, con i suoi oltre 57 chilometri. Tra un attimo andremo a collegarci con Andrea Ferro, che si trova sul posto, e ci faremo raccontare un po' come vanno le cose. No, mi dicono che ce l'abbiamo in collegamento, l'abbiamo raggiunto. Allora Andrea, eccoci. Eccovi, buongiorno, vi parlo da Rinect, Canton Uri, portale nord della galleria ferroviaria del Gottardo. A breve il primo treno imboccherà la galleria, ci saliremo insieme ai leader europei, percorreremo i 57 chilometri e 100 metri ad una profondità massima di 2300 metri. Dalle ultime notizie pare che Matteo Renzi non giungerà qui a Rinect, ma attenderà l'arrivo del primo treno al portale sud, cioè a Biasca. Merkel e Hollande sono attesi qui a breve. Poco fa è terminato uno spettacolo teatrale molto suggestivo, con attori e figuranti e poi anche la banda che entravano e uscivano dall'hangar trasformato in teatro su carri ferroviari. La storia delle montagne, del tunnel, i sacrifici, il lavoro, la costruzione di un capolavoro, coreografie davvero originalissime. Per l'inaugurazione la Svizzera ha speso 9 milioni di franchi, per il tunnel qualcosa di più, l'equivalente di 11 miliardi di euro. Tra breve anche noi saliremo su questo treno. In sottofondo sentirete molto probabilmente l'elicottero. Si stanno rafforzando le misure di sicurezza per l'arrivo dei leader europei e conteremo di collegarci durante il viaggio del treno ad una profondità di 2300 metri. Per il momento dal cantone Uri è tutto. Simone, ti restituisco la linea. Ti ringrazio, grazie ad Andrea Ferro, e dunque vedremo più avanti, intorno alle 13.40 dovremo riuscire a connetterci di nuovo con Andrea Ferro, se la linea reggerà evidentemente a quella profondità con 2300 metri di roccia sopra. Altri progetti europei nei quali è parzialmente coinvolta l'Italia nel servizio. Definito il collegamento sotterraneo più lungo al mondo, dal Mar Baltico al Mediterraneo, sarà pronto nel 2026 e la galleria ferroviaria del Brennero, 64 km in tutto, tra Fortezza e Innsbruck. La posa della prima pietra, avvenuta nel 2007, al momento sono operativi 4 cantieri, 2 in Italia e 2 in Austria. 3 anni dopo, nel 2029, è attesa l'alta velocità Torino-Lione. Le proteste hanno ritardato i lavori che poi sono partiti in Francia nel 2011, a Chiomonte nel 2013, ci racconta Mario Virano, direttore generale della società che si occupa della realizzazione del tunnel. A partire da metà del mese di luglio, per la prima volta nella storia della Torino-Lione, ci saranno due grandi frese, due talpe, che scavano contemporaneamente una lato Francia e lato Italia. I lavori definitivi cominceranno a gennaio 2018, una volta applicata la normativa italiana antimafia anche ai cantieri francesi. E poi c'è il terzo valico, collegamento tra Genova e la pianura padana, ci spiega Carlo Secchi, coordinatore europeo TEN-T. È il terzo grande progetto infrastrutturale su cui il governo si è impegnato. I lavori stanno proseguendo, i finanziamenti in una qualche misura sono assicurati. E la data di attivazione è fissata per il 2020. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Da lavori che si concludono a lavori che non finiscono mai, quelli sul lago di Como. Oggi 4 arresti. È stato grazie anche alla collaborazione con l'ANAC di Raffaele Cantone che il GIP di Como ha emesso 4 ordinanze di custodia cautelare, 2 in carcere, 2 agli arresti domiciliari per 2 dirigenti del comune, un imprenditore e un architetto. I reati vanno dall'abuso in atti d'ufficio alla corruzione. La vicenda riguarda la famosa passeggiata della vergogna. Il cantiere bloccato sul lago di Como e il recinto di legno e grate di ferro, le paratie, che copre il panorama. Una situazione che ha provocato anche la reazione dei cittadini che hanno inviato 110.000 cartoline al Premier affinché si arrivi a una soluzione. I lavori vanno avanti infatti da 6 anni e i costi sono lievitati da 8 a 33 milioni di euro. Il progetto è gestito dalla SAICAM, la stessa società coinvolta nell'inchiesta sul MOSE di Venezia. I lavori erano partiti con l'aggiunta di Stefano Bruni del PDL e sono stati poi ereditati nel 2012 da Mario Lucini, attuale sindaco del PD. Entrambi i sindaci sono indagati anche dalla Procura per un'altra inchiesta. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Controlli a tappeto del Ministero del Lavoro e Carabinieri sulle aziende attive nel litorale romano stamattina, nei giorni scorsi, dal 24 al 29 maggio. I controlli hanno riguardato 147 aziende del litorale dei comuni di Civitavecchia, Fiumicino, Santa Marinella, Pomezia, Ardea, Roma e Anzio, 99 delle quali su 147 sono risultate irregolari, con una percentuale superiore al 67%. Secondo gli inquirenti, secondo il Ministero del Lavoro e Carabinieri, che hanno diffuso questa notizia con un comunicato, questa percentuale è destinata ad aumentare in conseguenza della prosecuzione degli accertamenti. Vedremo dunque come andrà e rimaniamo in area romana per parlare dell'autobus che ha preso fuoco. Ancora un autobus in fiamme a Roma, con i passeggeri che hanno rischiato la vita. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 di stamane, nei pressi del Muro Torto. Provvidenziale l'intervento di 2 carabinieri in borghese, che dalla corsia opposta hanno avvistato il fumo e hanno aiutato ad evacuare il mezzo. Traffico mattutino nel caos per consentire ai vigili del fuoco di domare le fiamme. Il rogo si sarebbe originato nel motore a causa del surriscaldamento e di una perdita di gasolio. Nessun ferito tra i passeggeri, nonostante il panico causato dalle fiamme alte divampate rapidamente nell'abitacolo. L'incidente è l'ennesimo di una serie oramai lunga. L'ultimo è inizio maggio, quando un autobus aveva preso fuoco sulla Casilina. Per questo motivo sono in molti a chiedere una revisione straordinaria del parco autobus circolante a Roma. Giuseppe Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla politica, si guarda alle amministrative, ma l'attenzione è stranamente concentrata su Donald Trump. Ci spiega perché Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, Simone, Donald Trump sconfessa Matteo Salvini, viene da oltreoceano il nuovo colpo di scena alla vigilia del voto sulle amministrative. Il candidato repubblicano nega in un'intervista all'Hollywood Reporter di aver mai incontrato il leader della Lega e Trump lancia quasi il sospetto che Salvini si sia intrufolato nella manifestazione di Filadelfia Make America Great Again di aprile, dove si vede poi in foto con Trump. Dal canto suo il leader della Lega invece insiste che l'incontro è stato preparato, dice, per 2 mesi dagli staff reciproci e ci sono una dozzina di mail a provarlo. Sul fronte del centro-sinistra, stasera il premier Matteo Renzi sarà all'auditorium con il candidato Dem di Roma Roberto Giachetti, mentre ieri nel confronto televisivo su Sky è sembrato che tutti gli altri candidati, cioè Giachetti, Fassina, Marchini, Meloni, si siano messi d'accordo contro Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle. A te, Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento di politica. Ci spostiamo all'estero per andare innanzitutto a Fallujah. Le forze governative irachene stanno cercando di strappare all'ISIS la città, ma ci sarebbero 20.000 tra bambini e ragazzi intrappolati. Siamo in linea con Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF in Italia. UNICEF, che è stata quella che ha diffuso questa informazione. Iacomini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che quadro abbiamo da Fallujah? Ma il quadro è abbastanza preoccupante, confermo che ci sono 20.000 bambini, ma la notizia purtroppo è quella di un numero che tende a salire, e con loro naturalmente ci sono anche delle famiglie, moltissimi civili, mancano cibo, medicine, l'acqua pulita inizia a scarseggiare, lo voglio ricordare, sono pochissime le famiglie che dall'inizio delle operazioni a Fallujah hanno potuto lasciare la città, moltissime sono scappate nei campi che abbiamo gestito, che stiamo gestendo nelle zone limitrofe, altri ancora presso parenti o militari familiari, però diciamo c'è un numero molto alto che supera le 50.000 unità, parlo di civili e di quella cui metà appunto sono bambini, che purtroppo si trovano costretti a dover subire delle violenze. Lo voglio sottolineare, c'è un quadro piuttosto preoccupante per quanto riguarda l'arruolamento dei bambini, perché l'ISIS in queste ore sta reclutando nei combattimenti i bambini, gli fa imbracciare delle armi, spesso anche con la forza e con la violenza, e gli fa combattere una guerra, naturalmente, con una guerra che invece combattono gli adulti, quindi siamo doppiamente preoccupati sia per la situazione umanitaria sia anche per questo fenomeno, naturalmente, dei bambini soldato, che vede in questo momento appunto purtroppo ISIS ancora una volta protagonista negativamente. Dal lato dell'emergenza umanitaria mi sembra di aver capito che c'è un problema tanto di medicinali quanto di cibo, no? Sì, medicinali e cibo scarseggiano sempre di più, noi facciamo appello specialmente alla comunità internazionale per quanto riguarda il tema dell'acqua. Voglio ricordare che complessivamente in Iraq ci sono 11 milioni di iracheni, la cui metà sono bambini che hanno bisogno di assistenza umanitaria. È un po' come accade in Siria, così in questo momento a Fallujah, in queste città sotto assedio, purtroppo il taglio di questi beni di prima necessità rischia di portare veramente ad una tragedia senza precedenti. E grazie ad Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF in Italia. Un'altra notizia dall'estero, battuta poco fa dalle agenzie: una nave francese ha captato segnali provenienti dal fondo del Mediterraneo. Si presume che siano emessi dalle scatole nere dell'aereo Egyptair, che è precipitato il 27 maggio. Un comunicato della commissione d'inchiesta sul disastro aereo informa che nella zona delle ricerche dei rottami dell'aereo, appunto, le apparecchiature di ricerca della nave francese Laplace hanno intercettato segnali dal fondo del mare. Vedremo se ci saranno aggiornamenti su questo fronte. Noi adesso, subito prima del traffico, e quindi è il momento giusto, ci occupiamo del fine settimana del 2 giugno. Che cosa si prevede dal lato delle partenze? Saranno oltre 7 milioni gli italiani che approfitteranno del ponte del 2 giugno per trascorrere qualche giorno di vacanza fuori casa, 1 milione in più rispetto al 2015. Lo comunica Federalberghi. Come l'anno scorso, quasi il 92% di chi si metterà in viaggio resterà in Italia, con possibili ripercussioni sul traffico, come rilevano le previsioni dell'ACI. Per il pomeriggio di oggi e per la mattinata di domani sono previsti massicci spostamenti sulla rete nazionale, naturalmente verso le località di villeggiatura, mentre per la giornata di domenica sono previsti disagi e lunghe code in direzione delle principali città, specialmente nelle ore pomeridiane e sereali. Ricordiamo che per agevolare gli spostamenti, sia domani dalle 8 alle 22 che domenica dalle 7 fino alle 22, sarà in vigore il divieto di circolazione per i mezzi commerciali aventi massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Mete preferite, come sempre, le località balneari. Seguono le città d'arte e la montagna. La spesa media pro capite si aggirerà intorno ai 290 euro, per un giro d'affari di oltre 2 miliardi. Alessandra Iannuzzi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade in questo esatto momento. E poi nella seconda parte della trasmissione inizieremo il nostro consueto giro per l'Italia. Inizieremo da Trani, dove la procura sta andando verso l'archiviazione per l'inchiesta nella quale si ricercava una correlazione tra vaccini ed autismo, e quindi c'è voluta un'inchiesta per dimostrare quella che in realtà è una verità scientifica acclarata. Ne parleremo con Giovanni Rezza, che è direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, ma è stato anche fra i consulenti della procura ora di Trani sull'inchiesta. E poi ci occuperemo proprio di questo 2 giugno, perché è ricominciata, è ripartita la querela tra gli albergatori e i siti che si occupano di meteo. Gli albergatori dicono: voi segnalate temporali, e la gente disdice e a quanto pare li vogliono portare in tribunale. Traffico. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'interrogatorio che ci sarà oggi per l'ex fidanzato di Sara, bruciata viva a Roma. Abbiamo parlato dell'inaugurazione del tunnel del Gottardo e ci torneremo tra poco. Abbiamo parlato di Fallujah in Iraq, città assediata dalle forze irachene, e abbiamo parlato anche dell'inchiesta di Como che riguarda le paratie e dell'autobus andato in fiamme a Roma. E adesso ci occupiamo, iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo da Trani, dove la procura nei giorni scorsi aveva aperto un'inchiesta, nelle settimane scorse, nei mesi scorsi aveva aperto un'inchiesta sulla base della denuncia di una coppia di Bari, la quale coppia di Bari sosteneva che i loro figli, entrambi autistici, fossero autistici a causa dei vaccini. Saluto Giovanni Rezza, che è con noi, è il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore della Sanità. Buongiorno e benvenuto. È stato anche fra i consulenti sentiti della Procura di Trani sull'inchiesta, appunto, su questa inchiesta. Rezza, la prima domanda che le voglio fare, da scienziato e da persona che si occupa di queste cose, ed è una cosa che devo dire stupisce chiunque si interessi un po' di tutto questo, ma le sembra normale che una procura apra un'inchiesta su quella che in realtà è una verità scientifica acclarata? Purtroppo non è la prima volta che accade. Magari ci sono delle denunce, allora io adesso non sono esperto di giustizia, magari si decide a quel punto di aprire un'inchiesta. Dopodiché, quello che forse non va fatto è interpretare le sentenze come se non fossero indirizzate a valutare quel singolo caso, ma a generalizzare, come è successo in passato, no? C'è stata una sentenza, mi sembra un tribunale di Rimini, che diceva che legava appunto l'autismo alle vaccinazioni. A quel punto quella sentenza sembrava aver sostituito la verità scientifica. In questo caso, per fortuna, non è così, diciamo che è un risultato buono c'è stato, sì. È quello di dire, in base dopo all'evidenza scientifica, anche se io non ero l'unico consulente sentito, sono stati sentiti diversi e con diverse opinioni, in base alla evidenza scientifica è stato sancito anche dal tribunale, insomma, che non c'è alcuna associazione tra le vaccinazioni, in particolare la vaccinazione antimorbillosa, e l'autismo. Del resto, però, come lei diceva, ci sono fiumi di letteratura a proposito, no? Sì, sicuramente. Tra l'altro, Rezza, mi aiuta a ricordare per i nostri ascoltatori anche, che magari non lo sanno, perché insomma magari no, sentono i casi, ma non sanno come nasce questa leggenda dei vaccini correlati all'autismo, perché nasce da una vera e propria truffa. È una truffa scientifica, diciamo, operata da Andrew Wakefield, che era un medico londinese, che pubblica sul Lancet, quindi una rivista molto prestigiosa, un articolo che in qualche modo lega una sindrome intestinale accompagnata da disturbi comportamentali alle vaccinazioni, alla vaccinazione antimorbillosa. Pronto, mi sente? Sì, la sentiamo. A quel punto che succede? Che un annetto dopo, sempre sul Lancet, pubblica un articoletto in cui mostra la curva dell'autismo salire, crescere rapidamente a seguito dell'aumento delle vaccinazioni contro il morbillo. Dopodiché si incominciano a sfilare un po' tutti, gli altri coautori dicono: beh, ma effettivamente questa interpretazione non ci sembra realistica. Si apre un'indagine e si scopre che Wakefield effettivamente aveva in qualche misura imbrogliato le carte. Sì, imbrogliato le carte, tanto che poi fu radiato, no? Aveva un fortissimo conflitto di interessi, perché praticamente aveva ricevuto soldi da uno studio legale che stava intentando una causa, e i pazienti che lui aveva arruolato nello studio erano gli stessi che erano stati arruolati anche da questo studio legale per la causa in corso. Quindi lei capisce che sì. Dimostrando un'associazione lui otteneva due piccioni con una fava, pubblicava un articolo del genere, allo stesso tempo favoriva se stesso sostanzialmente. Dopo è stato radiato l'articolo, è stato, come dicono in inglese, retracted, sì, dallo stesso Lancet. Rezza, radiato all'ordine medici. Sì. Senta Rezza, per tornare a bomba sulla sentenza di Trani, c'è una parte di questa, o meglio, che non è una sentenza, è una richiesta di archiviazione da parte della procura. Mi sembra di aver capito che c'è una parte di questa richiesta di archiviazione che è quella che riguarda gli esami da fare prima dei vaccini, gli esami ematochimici, che non l'ha convinta. Ma lì si ventila questa ipotesi, nel senso che dopo insomma vengono sentiti più consulenti, qualcuno dice però bisognerebbe essere molto scrupolosi, per carità, tutti quanti noi vogliamo essere scrupolosi, no, nei confronti dei bambini che si vanno a vaccinare. È chiaro che si deve chiedere se hanno la febbre o meno, insomma se ci sono condizioni che potrebbero in qualche modo interferire con la vaccinazione, ma questa è una cosa che assolutamente va fatta, su cui non possiamo essere che d'accordo. Il punto è che purtroppo non ci sono degli esami, dei test ematochimici, dei test del sangue che possano dirci se la vaccinazione può dar luogo a degli effetti collaterali, a parte che questi effetti collaterali, come lei sa, in genere sono molto mild, dicono gli inglesi, miti, no? Niente di grave. È rarissima una complicanza grave della vaccinazione, siamo all'ordine di un milione con la maggior parte dei vaccini, e comunque se non ci sono dei test che si possono dire se quel bambino è vaccinato o no, tanto è vero che tutti gli organismi internazionali dicono voi i vantaggi dei vaccini sono di gran lunga superiore ai rischi, per cui assolutamente bisogna raggiungere certe coperture. È giusto essere molto scrupolosi, ricordare che quando comunque sia l'atto vaccinale è un atto medico, e che quindi bisogna essere molto scrupolosi. Su questo credo che siamo tutti d'accordo. La ringrazio, grazie a Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive, che è fra i consulenti sentiti dalla procura di Trani sull'inchiesta vaccino. Prendiamo un argomento un po' più leggero, ed è quello di questo fine settimana del 2 giugno. Non so se vi state preparando a partire, e tra un attimo sentiremo anche che tempo si prevede che faccia, ma nel frattempo proprio sul meteo si appunta l'ennesima battaglia degli albergatori contro chi fa le previsioni. Patrizia Rinaldis, presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Li volete portare in tribunale, ho capito bene? Ma il problema non è il tribunale, l'abbiamo sempre detto. Il problema è che in Italia non c'è una regolamentazione. Siamo l'unico paese, insieme alla Grecia, che non abbiamo un ente che dà delle regole al quali devono attenersi questi siti, che non dimentichiamo, io lo ripeto, sono siti commerciali. Ricordiamo qual è il tema. Il tema è: la gente vede previsioni brutte e disdice le prenotazioni dagli alberghi, oppure non le fa proprio, molto semplicemente, e ovviamente per voi questo è un bel problema. È un danno economico che non vale per noi, vale per tutta l'Italia, anche perché sono previsioni fatte con largo anticipo. 15 giorni fa avevano detto che ci sarebbe stata un'estate a 47 gradi, adesso avremo dei giorni invece con trombe d'aria e cicloni. C'è una superficialità di fondo, proprio perché non esiste né un ente meteorologo, non esiste una professione, non esiste l'albo, non esiste nulla. I siti più click hanno, quindi più sono i simboli o la terminologia usata sensazionalistica, più hanno click commerciali. Io credo, ed è questo l'intervento che noi stiamo cercando di fare, è quello di chiedere una regolamentazione a livello nazionale, quindi inserire la politica, perché se non c'entra dentro la politica, e quindi una mozione, un qualsiasi regolamentazione, non ne usciamo, è aria fritta. Quindi Rinaldis, mi sembra di capire, per adesso l'idea di portare qualcuno in tribunale non c'è per il momento, no? L'abbiamo già fatto, ma non si sono presentati. Noi siamo andati in mediazione, quindi abbiamo degli avvocati, oggi sono davanti a un assessore del turismo e ho chiamato anche l'onorevole Arlotti, comunque, che ci rappresenta. Sì. Ma non si sono escluso uno, gli altri non si sono assolutamente presentati, perché non hanno paura di nulla, non ci sono regole, quindi possono fare quello che vogliono. Quindi l'azione della mediazione con gli avvocati, fatta a livello regionale, nazionale, l'abbiamo già tentata. Adesso l'unica strada è quella veramente a livello legislativo. A livello però legislativo. Il danno economico, se parliamo di danni ingenti per l'economia, non assunzioni di personale e tutto il resto. La ringrazio, grazie Patrizia Rinaldi, presidente dell'Associazione degli Albergatori di Rimini, e vediamo se riusciamo a cogliere una risposta al nostro Paolo Corazzon di Trebi in Meteo, al quale chiediamo anche qualche previsione. Partiamo prima con la risposta, Paolo. Allora, intanto sotto alcuni punti di vista ha ragione, cioè, in Italia c'è bisogno di una regolamentazione, su questo sono sicuro. Sbaglia nel momento in cui dice che questi siti commerciali sono lì a fare soldi, perché in realtà ce ne sono alcuni che lo fanno, è vero, solo con quelle intenzioni, altri come Trebi Meteo, che invece è un centro meteorologico serio, in cui dobbiamo per carità campare anche noi, ma si fa meteorologia seria, quindi bisogna fare dei distinguo. E inoltre volevo solo sottolineare che però ci sono anche delle volte che sbagliamo, è vero, ma prevediamo il sole, la gente va in vacanza e becca la pioggia, e in quell'occasione gli albergatori non si sentono. Ci guadagnano dall'altra parte, Paolo. Quindi una regolamentazione ci vorrebbe. Intanto senti, allora, dici che cosa prevedete per questo fine settimana, perché qua c'è gente che probabilmente già sta preparando le valigie oppure partirà stasera. Allora, guardate, noi Trebi Meteo, centro che io ovviamente ritengo serio, prevediamo un ponte che sarà più bello che brutto, mettiamo le cose in chiaro. Anche ad esempio al sud Italia saranno 4 giornate quasi estive, al centro nord è vero che magari si formerà il temporalino, ma molto spesso è cosa passeggera, anche per chi è in spiaggia, lo vede arrivare, si ripara un attimo e un'ora dopo torna al sole. Quindi partite tranquilli, perché è vero, magari intanto l'acquazzone ci sarà, ma non sarà nulla di così tragico, e anzi col passare dei giorni sempre meno piogge, sempre meno variabilità, ecco. Quindi se beccate la pioggia nel fine settimana sapete con chi prendervela. E grazie grazie a Paolo Corazzon di Trebi Meteo, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire come sempre cosa succede sui mercati. Tra l'altro vi dico che è una brutta giornata quella di oggi, soprattutto e un'altra volta per le banche. Poi nella seconda parte della trasmissione andremo in un luogo eminentemente turistico, il Parco Archeologico di Pestum, dove abbiamo appreso da un pezzo di Gian Antonio Stella oggi che c'è là in mezzo una specie di costruzione abusiva e che però non si può abbattere. Parleremo col direttore del Parco Archeologico per farci raccontare tutto questo e poi torneremo al Brennero e vedremo se il nostro Andrea Ferro, pardon, al Brennero, al Gottardo, vedremo se il nostro Andrea Ferro sarà in grado di collegarsi appunto con questi 2300 metri di roccia sopra. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Oggi l'interrogatorio per l'ex fidanzato di Sara, bruciata viva a Roma, seguita nei suoi spostamenti con la geolocalizzazione dello smartphone. Si inaugura il tunnel del Gottardo, il più lungo del mondo con i suoi oltre 57 chilometri, nel punto più basso a 2300 metri di roccia sopra di sé. In Iraq, Fallujah è una città assediata. Ci sono 20.000 minori intrappolati, dice l'UNICEF, cibo e medicinali iniziano a scarseggiare. Sono stati captati segnali da una nave francese che potrebbero essere, dal fondo del Mediterraneo, che potrebbero essere le scatole nere dell'aereo Egyptair che si è inabissato il 19 di maggio e non il 27, come abbiamo detto erroneamente nella prima parte. Non c'è nessuna correlazione tra vaccini e autismo. Dopo aver aperto l'indagine, la procura di Trani si prepara a chiedere l'archiviazione. La borsa. Pioneer Investment, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta Effetto giorno. E nel nostro giro per l'Italia adesso andiamo in uno dei parchi archeologici più belli di questo paese, a Pestum, e siamo in Campania per una vicenda portata alla ribalta questa mattina da Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, e riguarda il fatto che in questo parco archeologico, in sé meraviglioso, sorge una costruzione abusiva che non si riesce ad abbattere sopra l'anfiteatro. Saluto Gabriel Zuchtriegel, che è direttore del Parco Archeologico di Pest. Un buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Zuchtriegel, 34 anni, è entrato con l'infornata dei 20 direttori delle grandi aree archeologiche e musei voluta dal Ministero dei Beni Culturali guidato da Dario Franceschini. Allora, Zuchtriegel, mi spiega come mai non si riesce ad abbattere questo oggetto che sorge tra l'altro in un'area che in realtà è complessivamente piuttosto ben messa, ampiamente visitabile, quindi se siete in giro in questo fine settimana, il 2 giugno, vi raccomandiamo di andarla a vedere perché è splendida. Però mi spiega cosa, che problema c'è? Allora, il problema non è che questa casa è abusiva, perché risale a un periodo più antico di quello poi che ha messo il vincolo, quindi non è strettamente parlando un edificio abusivo, dei quali purtroppo abbiamo altri nella zona tutto intorno a Pestum. Però è quello che è vero è che è una zona, terreno privato, che copre la metà dell'anfiteatro, l'anfiteatro di Pestum tagliato da una strada già nell'Ottocento, e quindi abbiamo una metà scavata, visitabile, musealizzata, e l'altra che è un terreno privato con questa piccola casetta di due stanze sopra. Il problema è che finché... Sì, non... perché, mi scusi, Zuchtriegel, la interrompo per dire, perché poi noi in genere tendiamo a ritenere che le peggiori brutture siano state fatte in questo secolo, mentre invece qualche genio nell'Ottocento ha deciso di fare una strada che passasse esattamente in mezzo all'anfiteatro di Pestum, quindi insomma, ecco, ricordiamo anche questo, perché c'è anche questo punto. Prego, continui. E già all'epoca ha suscitato parecchie polemiche, è stato poi anche denunciato per questo l'ingegnere che ha fatto questa strada. Allora, quello che per noi sarebbe importante a Pestum è portare un po' avanti una politica complessiva di acquisizioni di terreni al demanio, quindi non solo l'anfiteatro, che sarebbe un sogno poi poter anche scavarlo, no? Il giorno in cui ce lo danno cominciavo subito a lavorare sul progetto di scavo. Perché poi lei è un archeologo, quindi immagino che poi, insomma, mettere le mani nella terra, per così dire, la affascini particolarmente, insomma, sia quello che ha voglia di fare. Certo, però credo anche che per i visitatori è importante capire che Pestum non è, come dire, tutto indagata, è un sito che dove ancora c'è moltissimo da scoprire, quindi portiamo avanti anche gli scavi. Certo, allora mi spiega come mai non si può abbattere questa cosa qua? Allora, prima di abbattere dovremmo avere il terreno come è stato, come demanio, perché abbattere questa piccola costruzione non serve a molto se poi non può seguire una indagine archeologica, una musealizzazione di questo anfiteatro. Certo. E oltre a questa costruzione, questa casa, il problema è anche la strada, che è ormai asfaltata e passa sopra l'anfiteatro, quindi dovremmo interrompere questa strada, che è ormai pedonale, quindi forse non è così difficile, e poi liberare tutta la zona da queste costruzioni. Sì. Io credo però che noi abbiamo sostegno di una gran parte della popolazione, anche del comune, che qui ha testo il sogno di molti da molto tempo, questo scavo dell'anfiteatro. Sì. Speriamo brevemente, immagino ci vogliono parecchi soldi per far questo. Questo è un altro problema che abbiamo, grazie anche alla politica del ministro Franceschini, del ministro per la cultura, molti fondi, però sono tutti per i lavori, per restauri, che è ovviamente una cosa importantissima. Quindi tutti per il mantenimento, e non possono essere spostati ad altre voci di spesa, come per esempio appunto l'acquisizione e poi gli scavi sull'anfiteatro. L'acquisizione e anche la gestione e la manutenzione sono questi temi che sarebbe veramente importante valutare nel futuro, di cambiare un po' rivedere un po' tutto... questi finanziamenti, perché abbiamo 20 milioni di fondi CIPE, sì, che possiamo usare per un progetto importantissimo di lavori, per ampliare gli spazi, sì, espositivi, eccetera. Però di questi 20 milioni non possiamo spendere neanche un centesimo per altro, gli acquisti, per... però anche per la gestione dopo, la, certo, manutenzione. Che è l'altro grande tema. Io la ringrazio, grazie per essere stato con noi, a Gabriel Zuchtriegel, direttore appunto del Parco Archeologico di Pompei. Allora, vediamo se regge la linea. A 200 km all'ora e sotto 2300 metri di roccia, e quindi sotto il tunnel del Gottardo per il viaggio inaugurale del treno. Andrea Ferro, ci sei? Sì, sono proprio qua, sono quasi a 2300 metri di profondità. Il treno, come dicevi, sta viaggiando a questa velocità. Vi trasmetto anche con un filo di emozione, perché il treno ha, diciamo così, segnato una pagina di storia 5 minuti fa, quando alle 13:38 ha imboccato il portale nord di Rinax e ci sta portando al portale sud di Biasca. Un'opera, un capolavoro dell'ingegneristica, come avete detto. Riusciamo a parlarvi, quindi vuol dire che anche le linee telefoniche sono garantite sin dal primo viaggio di inaugurazione. A voler essere maligni, il treno è partito con 5 minuti di ritardo rispetto al programma iniziale, forse in Svizzera non è mai accaduto, e anche questa è una pagina di storia. Per quanto riguarda, ripeto, le caratteristiche di questo tunnel, 57 chilometri e 100 metri di lunghezza, significa che in questo momento io vi sto parlando dal tunnel più lungo del mondo, 3 chilometri e 200 metri in più rispetto al tunnel di Seikane in Giappone e quasi 7 chilometri in più rispetto al tunnel della Manica. Come vi dicevo, stiamo toccando la profondità massima di 2300 metri per realizzare questo capolavoro dell'ingegneria. La Svizzera ha speso una montagna di soldi, è il caso di dire, 12,2 miliardi di franchi svizzeri, più o meno l'equivalente di 11 miliardi di euro, la stessa cifra investita, giusto per fare un paragone, per le Olimpiadi di Londra del 2012. Un lavoro cadenzato al millimetro. In questo momento il treno sta acquistando ulteriore velocità, quindi evidentemente non era, quando abbiamo aperto il collegamento non eravamo ancora a 200 km all'ora, è difficile stabilirlo sulla base, diciamo, di parametri, certo, assolutamente inediti per chi ti parla e chiaramente anche per tutti, perché ripeto, questo è un momento storico e ho la fortuna in qualche modo di prendervi parte, perché ripeto, sto parlando da un treno che sta passando sotto le Alpi a 2300 metri di profondità alla velocità ormai di 200 km orari, mi sento di poterlo certificare. Simone, okay, da questo convoglio per il momento è tutto, chiaramente ci risentiremo all'arrivo al portale sud e quindi dalle viscere della terra, dal cuore delle Alpi, la linea ritorna allo studio. Grazie ad Andrea Ferro dunque per quest'ultimo collegamento. Noi adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade di nuovo, poi c'è Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.